10. E mi dici il modello qualche giorno che vado e me la compro. Ma cosa, chissà chi fai tu, è meglio di la Moccona. Chissà Moccona non mi piace in Italia. Questo metto che non faceva buono il caffè prima, il modello non è, c'è scritto solo dei lunghi davanti e basta, l'ho guardato, ma non ce n'è di modello, non c'è scritto nulla. Se tu mi dici, senti che buona, mi è, già vengo a vederla com'è. E così me la piglio uguale, vaffanguarla. E cavolo. Te l'ho detto dove andare a comprarla, io l'ho comprata lì. L'ho comprata da coso. Dove c'è. Cos'è? Un euro quello lì. Dove c'è. Dove ci sono quelle fontane a Predanita, c'è quelle fontane che scendono. Che c'è scritto Oppo, Oppo. Un euro è quello lì. E lì l'ho presa. L'eccente o qualche cosa, però almeno è una macchinetta che va bene. Infatti poi di marca me la voglio prendere così a Romanca Giovinito, mamma mia, c'ho anche quella della lavata qua e non abbiamo buscato le capsule, va, facciamo modo mio. Per quello lì Alessandra mi ha detto, mi ha dato la risposta, poi mi sono sempre dimenticato di dirtelo. Ecco che non ti ha chiamato perché se ti chiama deve chiederti chi te l'ha data, se quella macchinetta è stata pagata, da chi te l'ha data, eccetera, eccetera. E preferisce non interloquire, capito, queste cose. Io ho capito, va bene. No problem. Me l'ho già preso il caffè io, Con la Moccona. Con la Moccona lo fa. E ti dico pure un caffè che devi pigliare. Io lo prendo qua, o qua o da Ruspin il caffè. O prendo Yamez, che è quello di Ruspin, oppure prendo questo di qua, è la stessa cosa, è buono lo stesso. E mi fa un caffè con la crema alta 2 cm. Ecco già, per esempio la mia macchina, deficit in crema, una volta ne faceva di più, adesso è come se, secondo me è calata la pressione, non va bene in pressione, perché c'ero già tanti anni. Non ho capito, Marco, perché avete parlato in due. Vado. Ho detto, la mia macchinetta DeLonghi, deficit in schiuma, crema sulla superficie, perché secondo me con gli anni, perché ho tanti anni, mi ha perso come un po' di pressione, capito? Non è più come una volta. Infatti stavo preventivando di sceglierne un'altra, però a me sta tirando quella con le capsule, perché fa dei caffè così cremosi che sono un bijou, però costa un bel. Cioè, quanto mi costa un caffè in capsule? Un bel. Costa un bel. Il caffè in capsule lo paghi un bel. Ma non ti conviene. Io guarda qua di fronte a casa, c'ho una rappresentante della lavazza. E mi ha fatto anche la cosa. Mi ha fatto anche la riunione qua per farmi vedere la macchinetta nuova che hanno preso dalla lavazza. Fa un caffè che è favoloso. Poi fa tante cose, fa caffè, fa. Fa un po' di tutto, fa la cioccolata, insomma fa un po' di tutto, è una macchinetta che è più grande delle normali, va benissimo, te la danno in accomodato d'uso, praticamente poi tu devi comprare le charger, 150 euro di charger in volta, e loro te le danno, te le portano anche a casa, sino a casa, capito? No, così no, io preferisco comprare la macchinetta in contanti e poi le cialde, cioè il poco che ne bevo a casa, pochine, per esempio un caffè al giorno potrei bere, massimo due, dai, una la mattina e una sera, eppure a giorni alterni, io non sono costante con il caffè, però vorrei che fosse più simile possibile a quello del bar, cioè bello denso, bello profumato. Io mi ricordo che a differenza di questa, che metti il caffè in polvere, no? Quando lo fai con quelle macchinette, con la capsula, il profumo in onda, il profumo di caffè in onda, tutta la casa. Ma vedono quelle lavazza, come si chiamano, a modo mio. Quelle lì non conosco. solo il caffè, io voglio una macchinetta che mi faccia anche il cappuccino, perché io sono ghiotto del cappuccino, mi piace con la schiuma alta, bella, bella ambrosa. Quando lo bevo mi piace bello così, mi piace mangiarmi tutta la schiuma all'inizio. E lo fa veramente bene, ti sto dicendo che ma qualcosa lo fanno così. Ah, ma tu praticamente il latte lo fai montare, tra virgolette, con l'ugello che fa il vapore a pressione, no? Certo. Ok, no, cappuccino a casa no, la verità, io il cappuccino l'ho sempre preso al bar, sa perché? È una cosa psicologica, mi è sempre più piaciuto, forse perché te lo portano, capito? Già fare la fatica di farmelo da me mi toglie tutto il gusto del cappuccino. Guarda, io sono mandronia, si chiama, mandronia. Se impari a fare il cappuccino come si deve, altro che quello del bar, alto, bello. Una volta è venuta questa amica mia da Milano, è venuta qua a dormire a casa, e la mattina gli ho fatto il cappuccino, mi ha detto, ma qua al bar lo fanno così buono. Che buono, Gianni, veramente bravo, sì. E poi vabbè, il caffè ideale è quello, no? Che quando versi lo zucchero non scende subito a fondo, capito? Fatica a passare la schiumetta del caffè e a scendere a fondo. Allora quello è perfetto. Marco, lo sai che mi sto tutto spellando nelle braccia? Spellando nelle braccia? Hai preso farmaci nuovi, hai mangiato qualcosa di strano? No, mi sono disidratato, aspetta che mi passo un po' di cremina di quella dopo bagno. E mi stavo facendo prurito, mi sono grattato su tutto quanto con la pelle secca. Ti vuol dire perché il sole te l'ha fatto, mi già. E comunque bevi già, idratati, tu quanto bevi al giorno? Ma tu bevevi bevevi abbastanza acqua al giorno, no? Io pure, io acqua non me ne faccio mancare. No, non è vero, non è vero io. No, non è quello il problema, l'acqua la bevo. Probabilmente mi sono fatto il bagno, e ho il bagno schiuma, non lo so. E ho cominciato a spellarmi, mi sto spellando pure nel tatuaggio, da tutte le parti. Certe volte, ma guarda, in rari casi anche ho notato qualcosa del genere, ma in base al tipo di sapone, che magari ti seccava la pelle, perché io poi non è che uso tipo quei saponi neutri, io quello che trovo uso lì. Sapone liquido per le mani, generico, cioè in situazioni anche che hai finito il bagno schiuma uso tutto, anche la saponetta, come si chiama, quella che poi non è Marsiglia, quella bianca enorme da bucato. Ho capito. No, ma l'amica mia Ilaria mi ha regalato un dopo bagno, adesso me lo metto, controllo bene che cos'è e me lo metto, un dopo doccia, una crema idratante. Guarda se c'è scritto Sarin, ah? C'è il Sarin, mamma mia! Mimì, adesso concetta i codenni natalino, mi. Allora c'è scritto bagno crema fiori di cottore, e l'ho fatta regalare anche a Natalino questa qua, se se lo ricorda, ed è praticamente un dopo bagno. Come si fa il buono sconto, zug. Se non mi è 20 euro, prodotti. Vabbè, questo qui è la confezione omaggio che mi regala sempre la farmacista. Ah, pure il dopo bagno. Ma cioè, cosa fa? Idrata la pelle, tipo. Ma perché anche facendo il bagno, con tutta l'acqua che prendi, la doccia, si idrata la pelle. Se no cominciamo, il pre-bagno, il bagno, il dopo bagno, tipo il dolce, il caffè, la mazza caffè. Marco, in quel tiramisù ci ha messo anche il limoncello dentro. Ah, io, quante mascherine FFP2 vuoi per una fetta di quel dolce? Ma se vieni te la regalo anche una fetta. Infatti, tante, è Manu, è una degli Amana che mi è scisa. Infatti un pezzo lo deve dare a Serafina. A mia figlia adottiva un pezzo al prezzo e l'altro rimane a lui. Quindi e sarà mamma. Io sono cogiloso, ma... Stava Gianni. Ma sai che efficace quella crema che c'ha la Tilaria? È bella efficace, Mi ricordo di un prodotto, non mi ricordo che prodotto fosse, però ti lasciavo la pelle, sembrava fatta di velluto. Di velluto. Peggio dalle donne stiamo diventando però con questi prodotti, Mamma! Avete parlato in due, avete smesso nello stesso istante, non è passato nessuno dei due. Sapone DAB, la saponetta DAB, lavati con quella e poi mi dici chi ora è. E anch'io non traduisco. E vedi come gli lascia la pelle. Io uso quelle, in realtà lì. Io ho sempre usato quelle, ma ti dà garabiti, guarda, un velluto. Poi c'è anche la crema, mi sembra, di quella marca, idratante. Luca, quando è venuto a casa, gli ho detto di le mani, che abbiamo chiesto tre volte la seconda idea che va per la saponetta d'acqua, invece che quello liquido. No, l'avevo finito quello liquido, io c'ho qui sia quello liquido che quella d'acqua. Quella d'acqua la uso solo io. Per avere la gente di fuori, uso quello liquido. Basta che sia sapone neutro già, per lavarsi uno le mani e coso, sapone neutro ci vuole. Ehi, a quella è buona, la lavo costa, però sono dei migliori. E infatti, io mi lavo un ghisa saponetta DAB, mi lavo, però per lavarmi le mani così mi lavo con quello neutro, dai. A parte che io sto con una 5 minuti a muso, a chi mi rimane a muso, ma cosa mi dà di fastidio quando sto con di cosa, buru. Stamattina stavo facendo, stavo tagliando il pollo e cosa, subito mi giurava di rimane, a chi mi dà di fastidio, immediatamente ogni cosa mi dà fastidio, allora mi lavo subito le mani. Questo stavo aiutando la Concetta a fare quel tiramisù e ogni 5 minuti ando a lavarmi le mani, che un momento mi viene brutto mi dà fastidio. Anche in pasticceria ero così. Io sono qui. Marcolino sarà andato a farsi un caffè. Io ho già mangiato. Dopo devo portare il cane in bocca e da voi mi si gocco. Uia. Anzi, no, dopo c'è bene. Tu sei mai da Belen, quando mai? Oggi è sabato, oggi c'è Tussicavares forse. Sì, oggi è Tussicavares. Vediamo. Signor... C'è anche Ciao Darwin, me. Mamma mia. Ah, oggi è Ciao Darwin. Marco dice i magliucchi. E mia moglie non me ne fa guardare di quelle cose. Mamma mia, c'è madre natura che fa svenire la gente. Signora di Rugheimer, non me ne vada a da. Natalia, tu devi vedere, certi tipi si fanno il vento con la mano, altri che stanno a bocca aperta, gli altri con gli occhi sbarrati, quelli certi con il cannocchiale. Li sono guardoni proprio. Appena però. Oh, delle varie, mia, ce la faccio l'auca, aspetta, delle varie puntate di Ciao Darwin, settimane fa ce n'era una con le, da una parte quelle, diciamo, santarelle e dall'altra parte le pornostar, dovevi vedere le pornostar, cosa non era quella puntata? Già l'ho vista io, oggi è bello perché ci sono i ghini, c'è quello ciccione, come si chiama, quello che fa... Ah, quello che ride, quello vestito a fiori che fa le domande di supporto a, al programma Avanti un altro, poveretto, non si diverte, poveretto. Eia, fa ridere un bel, a me mi fa piacere dalle risate, anche se è lì, però fa ridere un bel. Che schifo questo. Ciao Fra, sai che piace a me proprio, mamma mia, ui, come si chiama quella che fa le domande di supporto, dai, porca miseria non mi viene il nome, anche poco fa c'era me, non so chi stai dicendo, ha davanti un altro, aspetta chiedo a mamma, ciao Fra, riprendi. Ciao Franco, oggi ci sono gay contro uomini oppure contro, come si chiamano, maci, roba del genere, gay contro macho, una cosa del genere, fa crepare la risata. Per carità, che schifo. Che schifo, io mi piscio dalle risate, guarda, ci sono, sono troppo simpatici. Leggo tutto quello che stavi dicendo poco fa, perché quando non vedo vai a cambio canale. Ma non è coso, non è come si chiama, ma Platinè, no. No, quello che hai visto una cosa, da Monulis, quello grasso, tutto, per carità, fa schifo solo a vederlo. Quello ha manco maschi troppo. Ui, e chi se lo prende? Però è gay. Io lo so, ho visto che è gay, però chi se lo prende? È un problema. Ridere simpatico e quando gli fanno le domande non comprendi nulla, avete prima il risato. Bisognerebbe organizzare un incontro tra quello e Paoletto. Mamma mia, guarda che per fare quei programmi li prendono, li cercano apposta, come si chiamano, delinquenti, drogati e via. No, che ci sono gay e macchi gay, mi sa, stasera c'è da ridere qua. Poi a parte quello, ci sono dei panorami che è buco allucinante, non se ne vedono tutti i giorni, là. Ecco, e se non mi sa bere, quella fa schifo solo a guardarla. Sta bene. E allora, ma tu lo sai chi è bere? Sì, già lo so chi è, però a me mi fa fare altri pensieri. Lo so, c'è per una donna, quasi ha fatto film, cioè non film, video porno a tutta andata. No, quello lì è il ragazzo che è stato un bastardo, che li ha filmato mentre stavano facendo l'amore, l'ha mandato su internet, capito? E l'ha sputtanata quando si sono lasciati, è stato un bastardo lui. Perché tante donne lo fanno, tu non lo sai, sembrano persone tranquille, eppure lo fanno lo stesso. Però a lei l'hanno fatta apparire come se fosse una di quelle, capito? Ehi, capo, chi l'ha guardato pensa a quello. Lo so, anch'io ci penso. L'ho visto anche io quel filmino. C'è lei che mi fa tutti i lavoretti, capito? È karaoke, tutto gatto. Vabbè, dai, al limite, almeno non deve imparare di niente, sa tutto. Infatti. Ma chissà quante ce ne sono donne che lo fanno e tu non te lo immagini nemmeno, solo che quello è stato un bastardo che l'ha mandato in onda, capito? Che l'ha filmata e l'ha mandato su internet, a sputtanata. Capo, non lo so questo. Io sono visto quel filmino, però niente di... Sono tutti riusciti, chi entrava a fare spettacolo, queste cose qua, tutti riuscissero. Beh, si sa che quello è un mondo che ti fa provare tutto, ricchezza, tutto quanto, vanno in locali tipo Costa Smeralda, eccetera, eccetera. Locali dove anche io ci sono entrato perché ho un amico che mi fa buttar fuori e sono entrato e dove lo Smile lo conosci? A chi? Lo Smile. No. È di Umberto Smile. Beh, quello che faceva Colpo Grosso, te lo ricordi? Sì, ho capito, quello grasso. Esatto, quel baffino. Quello lì è il padrone dello Smile. E ci vanno tutti i cantanti, tutti i gente dello spettacolo. E siamo andati con questo amico, lui fa buttare fuori lì, capito? E mi ha fatto entrare a vedere sono stato 5 minuti e mi sono andato. Lo sai che la roba costa 300 euro, prendi una bottiglia di champagne costa 300 euro, tutta roba così, capito? E poi c'è lui che suona, c'è Smaila che suona al pianoforte, cazzo. Gianni, quello di Porto 4, ci sono andato io. Porto 4. Una volta, lo stesso per conoscenze eravamo entrati, no? Io stavo già andando a pigliarmi un caffè in zona bar, mi ha detto no, non prendere niente, sto scherzando, siamo entrati a guardare, ma mi ci stavo fanno pagare 10.000 lire dell'epoca un caffè. E cosa? Ma poi mi pare che avevamo messo fuoco a quel locale, mi sembra che l'avevamo messo fuoco. Quello lì, cazzo. Linarese si pensa in Chivi, lui fa piano bar lì, il padrone adesso non lo so se l'hanno incendiato come hai detto tu, cazzo, è stata una bastardata. E io ci andavo con Massimo, ho capito, Massimo mio cognato, che conosce gente di Urbia, gente che lavora lì, capito? Siamo entrati, ci hanno fatto entrare, ma siamo per fare un giro, per vedere un po' di gente, dello spettacolo e cose, dopo si esibisce, l'hanno guidato nuda. E c'era ormai era proprio che stava suonando. Quello è il suo lavoro. E ma è anche il proprietario, lo sai, non è che si va a chi? E te credo, lì andano a Champagne, andano. Comunque ho ricordato il nome di quella di avanti un altro, Miss Claudia. Quella è mamma e non presulta. Ma ci sono anche quelle le madre natura, sono troppo magre, io l'avrei preferita più corposa, ma sono delle vene di solito. Guarda, una volta, ce n'era una, ma ce n'era una che rimanevi veramente a bocca aperta. Cioè tu dicevi non può esistere una donna così bella, probabilmente è fatta al computer, no, invece è lì che si muove, è proprio vera, porca miseria, guarda. E ci sono quelle polacche, roba così, che sono, se tu le vedi a Platamona, quando eravamo in negozio, cioè quando io lavoravo, che andavo a Platamona a portare la merce, portavo anche il pesce e tutto quanto, e c'erano queste polacche, e queste russe che se tu le vedevi, guarda, alte, bionde, con i capelli lunghi, con gli occhi azzurri, ma belle donne, mi dicevano ciao Gianni, mi facevano il sorriso, no? Oramai mi conoscevano perché mi chiamavano per nome le commesse, quindi loro sapevano il mio nome e non sapevo il loro. Però bellissime donne, guarda, solo a vederle rimanevi incantato. A Olbia le avevo viste io così. Le donne più belle del mondo. So che è sempre quello, no? Cioè, a parte mi hanno portato e non sono andato di mio, che non ci vuole in quel caso. Però due volgari birre 8.000 lire. Ma ha detto, ma stiamo scherzando, figurati se vado a spendere in donne. Vai fra. Già, quello Smaila, eh? Una volta ha detto che lui quando guarda le donne le vede nude, già direttamente. Ma è una televisione. E c'era la faccia di viscido, Poi ha fatto sempre programmi tipo Colpo Grosso, tutti i programmi spinti, capito? E ha la faccia da viscidone, ce l'ha. Ma è che, aspetta, le vede gli annuri, la immagina che, no? Infatti è sempre è stato un tipo che cioè, lo fa credere proprio che solo a guardarlo, oppure come si comporta, che è libidinoso, capito? Libidinoso. Libidinoso, devi vedere, è tutto. Tra l'altro giorno sono andato alla spesa e ho trovato questa tipa che non ho potuto fare a meno di girarmi, che sembra una bella ragazza, con questo fisico perfetto ci aveva, non c'aveva un filo di grasso, di pancia, niente, era perfetto, c'era questo vestito attillatissimo che faceva vedere in trasparenza tutto quanto, ti faceva venire, ti faceva uscire gli occhi fuori dall'orbita, ti seguiva, ti seguiva, ti usava. Quando è bello, non c'è niente da fare. Anche un figlio che si inabizza, si gira, così non la vede. Va bene, dai, ora ci sentiamo che stiamo mangiando. ciao a tutti. Ciao Natalino, Marco e Gianni, dai, riprendi già. Sì, fra poco vado anch'io, ciao Fra, buona carica, ma non la fai. No, fra poco vado anch'io che devo portare giù il cane, devo fare da mangiare, adesso portarlo giù, dai. Io alle 8:30 sempre lo porto giù. E poi verso le 9 risalgo. Vabbè, dai, non lo so se riprendo perché mi guarda Bonulis, dai. Va bene, ci sentiamo. Riprendi Marco, ciao. Già, dai, a dopo. Altro è Bonolis, io mi guardo le concorrenti di Bonolis. Vabbè, Bonolis è per non dire altro. Edo non me l'ha fatti nulla di Edo, pure maleducato, a volte stronzo come ciccione, dice ciccione, dice offende un bel agente. È importante, via. Importante c'era. Boh, non lo so. Quando stava parlando Marco, c'era la portata perché non lo sentivo a Marco. Ciao Fra, prima che ci perdiamo. Maledizione, vado là, ciao. Ciao, ciao Franco. Bene, ciao Natalino. Dai, sono le 8:05, adesso me lo faccio veramente il caffè, dai. Però non riesco a trovare i trucchi per farlo più denso, per quanto io ho preso il caffè, più di tanto non è denso, ci vorrebbe una macchinetta nuova, magari a capsule. E adesso vedo, dai, invece di comprare schifezze, baracchini, mi regalo la macchinetta a capsule. Solo che poi il caffè costerà di più, giustamente, se lo vuoi buono devi pagare. E infatti. Tanto al bar me, poi io non so, per esempio, cioè, se io me lo faccio a casa, no, con una capsula, quanto mi costa un caffè? Dovrei fare il conto, no? In base al costo della confezione di capsule. E al bar quanto ti costa? Un euro, vabbè, qua vicino è un euro. Certo, se mi costa il doppio, no. Allora me la continuo a usare macchine di questo tipo. Con il caffè in polvere o al massimo con le cialde, dai, una via di mezzo, però preferisco quello in polvere perché è più scelta, lo sai, puoi prendere tutti i tipi di caffè esistente, lo pressi appena appena e te lo fai, va bene. Ciao Natali, ci sentiamo, dai, buona cena, se devi cenare, o hai già cenato? Non sto cenando adesso, mi ha portato il riso mia moglie, avevamo il riso con appendi, il caffè me l'avevo già fatto io, quando ti ho detto adesso vado a farmi il caffè, ho preso, sono andato in cucina e me l'ho fatto. Prima della cena, ma non è che ti spezza l'appetito, no? No, negativo. A me lo fa, se bevo, mangio roba dolce, anche una cosina, una caramella, prima di pranzo, cena, mi rovina l'appetito. Ok, dai, ci sentiamo, buona cena e di traverso, mi soprattutto. E altrettanto, non c'è di che. Sempre tutto in HI, ok? Ciao Natali, ciao, saluta Concetto. Ciao. Saluta in famiglia, ci sentiamo alle prossime, dai. Ne avremo un altro di 3900. Un altro 3900, e chi se l'ha preso? Una persona. Insomma, sta spopolando il suo baracchino, per quanto semplice sia. Beh, comunque già, se fai un conto, no? Che un Alan 48, che è solo MFM, poi non so se col microfono di serie, cioè come esce dalla scatola, vuoi sentire come esce? Cioè, per quanto, per esempio, vuoi la GBC, no, minimo ti chiede 190 euro, preferisco investire gli stessi soldi su un 3900, c'hai anche le bande laterali in più, esce discretamente, diciamo, dai, anche senza fargli le modifiche. Volendo se li fai le modifiche, canali è una fesseria, tutto trimmeraggio è una fesseria, già lo sai. Ciao già, ciao, dopo. L'ho abbassato anche i watt, quando esco con i watt che gli ho dato esce basso perché c'ha 4 watt, dai. Però aiutando esce bene. Ah, Ah, proprio li avevi effettivamente, ma per caso scommetto che più è abbassato più la modulazione è diventata forte. Ehi, lo vuoi sentire che te lo attacco? No, già, non adesso, dai, facciamo domani direttamente, adesso tanto vuoi rivedermi, anch'io c'ho Darwin e poi mi preparo i telefilm per la notte. Però già mi fido, comunque io lavoro nelle stesse condizioni, cioè in città praticamente io ho solo 3 watt, ricorda, 4 watt più il filtro, 3 watt reali, poi vabbè col cavo che ho io ne usciranno 2, poi se necessario, ma solo se necessario, no? Già lo sai, guarda lo Smith, ecco, no, cosa vuoi di più? Un Lucano. Un attimo, volevo dire, non andavo in comunque, va bene, dai, è un apparecchio. L'unica cosa che c'è è lo smitter che è un po' sballato, devi dare, se poi ti arriva a 9, devi dare 9-10 il segnale, devi dare segnali in più perché è un po' rimizzo. Sì, guarda, quando è arrivato il primo, quello con il display rosso, ora il secondo era drammaticamente basso lo smitter. Tipo gente che dovrebbe arrivare alle 9.30 arrivava al massimo 9.5, 9.10, ho detto no, qua bisogna. Però vedi, all'epoca avevo il K, almeno il 9 glielo potevo mettere giusto. Poi ho fatto tutta la corrispondenza, non so se te l'avevo mandata già, tutta la corrispondenza col K, cioè Santiago 1 di qua corrisponde al 5 e via dicendo, allora, mi sono fatto la corrispondenza, quindi io non dico quello che segna lo strumento, dico il segnale reale che dovrebbe essere, sempre condizionale, che dovrebbe essere. E anche io faccio così, ma non ho capito perché ho staccato l'apparecchio, l'ho messo sul gas, arrivava a prendere 9.20 e l'apparecchio non arrivava a 9.10, gli do 10 punti in più e via, direttamente, così non sarà un segnale preciso, ma è forfettario, ma diciamo che si avvicina di più. Eia. Sì, anche per esempio col K dicevo questo Santiago 7 e qui me ne indicava 3, Santiago 3, infatti qua il 3 corrisponde al 7, il 5 all'8 e il 9 era stato tarato all'epoca, però poi, ma bisogna essere si è starato, purtroppo, vabbè il K non c'è più, sarebbe lo smettere buono per fare i confronti. Ma vabbè, certo non me lo tenevo per lo smitter, no? Ma tu quel K non lo dovevi dare, era perfetto, quello lì non era di Sassari, ma quello lì è arrivato da fuori, me l'ha mandato Tecnocomunicazioni che l'ha ritirato il continente alla fiera, e l'aveva tutto quanto controllato e mi ha detto che non c'era nulla da toccare, che era perfetto, mi ha detto guarda, ho provato a dare una controllata perché loro allora ci avevano i laboratori dove facevano Kenwood, gli AES, tutti questi apparati qua, e l'ha messo sotto macchinari, ha detto che era perfetto, che non era mai stato toccato, dice stai prendendo un apparecchio che non c'ha un graffio, l'unica cosa che c'ho è che il microfono che mi hanno dato, l'MC60 è un po' consumato, e conoscendoti te lo dico prima di mandartelo, ma addirittura non te lo mando direttamente, ho detto no, mandamene uno nuovo, ho detto costa 170 euro, e ho detto vabbè mandamelo lo stesso, e mi ha dato quello nuovo, capito? Però cazzo era, cioè c'avevi il microfono nuovo, l'apparecchio che andava bene l'hai dato, perché l'hai dato? Non mi trovavo, cioè io sono più per i baracchini veicolari, c'è roba piccola, pratica, che te la puoi mettere in macchina, che la puoi imboscare in fretta, se necessario. vabbè. Sì, lo smitter, guarda, io di quella radio rimpiango solo lo smitter, cioè potevo dare segnali veritieri, controlli veritieri. Però per il resto già lo sai, con la mia voce non rendeva molto. E quindi forse diciamo, di la verità, tu ti sarebbe piaciuto rientrarne in possesso? Se io avessi deciso che adesso di darlo e tu avessi avuto la disponibilità, magari l'avresti ripreso in futuro, vero? Diciamo, li diciamo di sì. A me mi piaceva come cibi tu e Marco, non dire fesserie, tu cibi molto bene, era anche molto amplificata la radio. Certo, non avevi la voce di certe persone, però ognuno c'ha la sua, non puoi cambiare le corde vocali, tanto con nessun apparecchio esci con le corde vocali di un'altra persona. Quindi uscivi bene, per la voce tua uscivi bene, era bella forte. E poi anche Benito, mi pare che mi è venuto a lui, usciva un bel forte anche lui, adesso non lo so se ce l'abbia ancora. Comunque io mi sono sentito, registrato, sia per prove, qualcuno magari mi ha fatto il favore di registrarmi e mandarmelo, oppure mi sono registrato nell'altra stanza con l'altro baracchino. La mia voce non mi piace, non mi piace proprio sentire la mia voce in radio, cioè se io sentissi uno con la mia voce che entra adesso, penserei, scusate il termine, penserei, ma chi è questo coglione? Ma non è vero, guarda, te una voce abbastanza tranquilla, pacata, e non diciamo che non ti sdegni della voce tua, no, diciamo che è piacevole perché è tranquilla, placida, è una voce normale, però esci bene, non è che non hai timbri che alte o cosa ti posso dire, dei bassi forti, no, è una voce normale, senza attoni. Attona proprio, senza attona, no, senza di uno, senza palle, senza corde vocali, proprio, vabbè. A me la cosa nasale mi dà fastidio molto, la voce nasale. E lì cosa fai? O ti operi ai turbinati, ma io, se non è obbligatorio, vitale operarsi, non mi opero, non tocco nulla. Vedi, per i calcoli rischiavo di perdere le vene, che avevano proprio chiuso tutto, allora d'urgenza, per quell'altra cosa lì, però se non è proprio strettamente necessario non mi opero. Non mi fido, qui tantomeno poi, ui, per carità. Vabbè già, da, vado a caffeinizzarmi, ci sentiamo domani, ciao. Marco, io ti dico una cosa, che tutta quanta una voce che dicono che qui non sono bravi e cose, quando siamo andati a Roma, sai cosa ci ho detto? Perché non siete andati a Sassari, che se i colleghi sono abbastanza bravi, anzi sono dei più bravi che ci sono, e voi non venite qua a Roma per farvi fin controllare. È una cosa strana, perché mia moglie ha detto, perché io voglio sapere da più persone, da più dottori, ecco perché. Vabbè, comunque dice, a Sassari avete dei colleghi specialisti che sono molto bravi. E poi ti faccio l'esempio della gamba, tutti dicono, ah, non ti operare a Sassari, io sono operato a Sassari, io sto camminando tranquillamente, boh, è tutta una diceria, boh, non lo so, a chi è andato male ne parla male, a chi è andato bene ne parla bene, così è come tutte le cose. E anche la cardiologia, per esempio, è un'eccellenza qua a Sassari, vengono anche da fuori a farsi operare. Qui abbiamo dei medici veramente come si deve, bravi specialisti. Sì, quello anche io lo volevo dire, Natali, mi è preceduto, la cardiologia pare che sia ottima a Sassari, poi per altre cose non lo so. Vabbè, la mia era una cosa particolare, per cui sono dovuto andare a Milano. Qua non ne facevano, non hanno le attrezzature, non hanno l'esperienza, non hanno proprio, non si prendono responsabilità, è una cosa troppo delicata. E che non abbia lasciato anche delle, come dire, delle ripercussioni, sai, dopotutto stanno toccando sempre la zona cerebrale. Beh certo, è una cosa delicatissima questa, non è che sia, però ci sono molte dicerie, per dire traumatologia, non ci sono più i medici di una volta, sono tutti giovani questi che ci sono adesso, tutti giovanissimi, e diciamo che tante volte i giovani superano gli anziani, capito? Perché una cosa è essere bravi e sarai sempre più bravo, poi una cosa è fermarti su una cosa che non sai fare e continui a sbagliare a fare. Questi di adesso sono tutti giovanissimi, tutti quelli che stanno adesso, tutto il personale molto giovane, anche le infermiere, i sono così tardi in pensione, adesso c'è mamma che deve andare in pensione il prossimo anno, Vanalisa che è un'amica mia, che c'è tanti anni lì, e va in pensione, e entrano sempre di nuovo, capito? Stanno entrando un po' di ragazze nuove da Roma, vengo, c'erano due romane che erano bravissime, gentilissime, guarda, non so più come prima che erano scorbutici. Tu devi pensare, quando facevo servizio ambulanza io, ho portato la suocera nel primario di traumatologia, all'ospedale Marino l'ha fatta ricoverare quello lì. Ma magari non c'erano posti, cosa vuol dire quello? Non è che hanno operato bene, non posso dire il contrario, io sto camminando tranquillamente, faccio tutte le mosse, ecco tutto che non ho fatto fisioterapia, me la sono fatta io, a modo mio me la sono fatta io, se no abbiamo due anche di legna che sura. Cammino bene, grazie a Dio me l'hanno fatta bene l'operazione, i dolori non ne ho più, i dolori li ho avuti sin da quando si è formato bene il muscolo, perché me l'hanno tagliato in due il muscolo per arrivare all'osso, ti puoi immaginare, i dolori un po' c'erano dopo, però non ti posso dire il contrario, sto bene, cammino bene tutto caso. Meglio così, ma forse perché hanno cambiato tutti i medici, capito? Adesso sono tutti giovani, ma prima era roffia la situazione, era tribula. Infatti io dico, non se l'è sentita di operarla, la suocera, e l'ha mandata all'ospedale Marino, quello lì. Il primario proprio, la suocera del primario di traumatologia di Sassari, l'ha mandata all'ospedale Marino. La suocera, perché l'ho portata io, lo so. E a me il primario, sai cosa mi ha detto? Signor Merlì è molto bravo e noi le persone brave le mandiamo via subito, perché mi ha visto camminare dal primo giorno col carrello, mi ha detto, caspita, dice, lei è molto bravo, dice, le persone brave le mandiamo via subito noi. Io non mi pare vero a me. Tanto di dolori già ne hai sopportato poco quando eri in aspettativa. Oi oi. E anche dopo l'operazione Natali, mi hanno fatto anche la morfina antiguasso. I dolori c'erano, perché c'erano, non è un'operazione di routine, è un'operazione che ha, diciamo, è abbastanza complicata, non è una fesseria. Ti devono tagliare un pezzo d'osso, per arrivare all'osso ti devono aprire il muscolo, devono stare attenti, perché lì c'è anche, come tu sai, l'arteria femorale, se toccano quella che ti vengono l'emorragia ti rimane. E chi di cazzo, se toccano chi c'è a morire di sanguardo? Beh certo che sì, è molto complicata un'operazione, me l'ha detto che era un'operazione importante, a me metto, il dottore metto e d'altronde ho detto, ma questi dolori che ho anche dopo, e l'altro detto, signore, è un'operazione importante, non è che può aspettarsi che subito gli passi i dolori, lasci il tempo che il muscolo si riprenda, perché quelli sono dolori muscolari, infatti non erano dolori alle ossa, ma è il muscolo che mi faccia bombare male. Capito, si stava riprendendo, una volta che poi il muscolo si riattacca e si rimette come era prima, perché si riforma, capito? Il muscolo è l'unica cosa che cresce, che si riforma. Una volta che il muscolo si è rimesso a posto, io dolori non ho più avuto. E infatti perde di tono, perde tutto il muscolo una volta che è operato. Dopo già si, quando si riprende torni la vita normale. Ma meglio così, allora che hai finito di soffrire già, che hai pittina, già ne hai passato poco di dolori quando eri con la gamba così. Poi purtroppo di dolori allucinanti, non c'avevo una posizione di notte per stare bene, devo stare a forza di occhi. Dopo manco l'occhi mi stava facendo bene, mi hanno preso 4 scatole di occhi, più mentali quel brufo che ti ho dato a te. Immaginati tu, i massini che hai giubilato. Poi non dormivi la notte per i dolori, anch'io sono così, il minimo disturbo, già dormo poco, figurati il minimo disturbo cosa mi fa. Ma lo so, anche tu ti devi decidere a farti vedere però da questo dottore, non ti decidi, hai paura di andare, paura che ti dica di che ti devi operare. No, non è grave come la tua situazione. Però devi andare. È che non mi fido adesso per questo coronavirus. Come fai a andare a farti vedere in chimica su mamma mia? Per esempio oggi, stando dritto sempre, perché stavo lavorando qua in cucina, era mal di schiena, ti giuro, ma un dolore di schiena mi è venuto tremendo, sia ieri che oggi. A me quando sto volentieri mi fanno male i rini, però è dovuto anche al peso, devo dimagrire un po' e basta. E sto mangiando bene, quando c'è stato il coronavirus, che siamo dimagrito, 20 kg, allora adesso quando la acquisterei, sono arrivato a 93 kg, e dopo sono aumentato di nuovo. Perché ne hai abusato e per quello che hai ingrassato. Ma se ti muovi dovresti tornare a dimagrire, mi. Ah, mi sto muovendo, io stasera avrei voluto andare, mi affrontavo la famiglia, ero bandito, io ci vieni, però penso a te magari puoi concettare, dice cosa e non ti ho detto niente. Cosa mi dice Concetta? Se devo uscire non mi dice niente Concetta, solo che il fatto che puoi viaggiare in due. Sì, devo farti Gastone, per tu dietro io davanti. Dove metto in cofano? No, dietro, il cofano, guardaci cos'è, al lavoro. Li metto in cofano, poi quando siamo arrivati a Pantamora al bar, c'è l'ultimo che scende, quello che pago prima me lo vado dopo. Vabbè, dai, io vi saluto che sto chiudendo, va. Ciao a tutti, buonanotte, ci sentiamo domani, dai, ciao ciao. Ciao già, anch'io sto chiudendo, ciao Antonello, ciao Marco, sei in ascolto, io lo stesso me ne passo in quel ritiro, ci sentiamo alle prossime. Ciao, ciao a tutti, gli sto scaldando la macchina qua. Pomponio, cosa stavi dicendo a Platamona? Vabbè, ciao, ciao, ciao. Ciucca, ciu. Sì, cosa stavi dicendo Antonio? Mi ha chiamato Simona per le medicine e quindi Antonio ha anche risposto, stavo rispondendo alla cosa. Stavo dicendo, ho detto, io mi metto in cofano, ho detto, quando scendo la Platamona per sicurezza, quando vado al bar, ho detto, io scendo per ultimo così pago, no? Così loro se ne fuggono, poi pago tutto il conto io. Bene, adesso mi faccio il caffè, poi televisione, poi telefilm, finché sonno non sopravvenga. Mi se passi domani ti do quella roba, mi marco. Domani credo che ci sia, presumo è che venga il maresciallo a casa, che se abbiamo da mettere qualcosa a posto. Non puoi venire. Già lo sai, no, chi è il maresciallo? Mamma mia, mi fa trottare, mi fa. E vabbè, al limite prendo la macchina e te lo porto io, là, perché ce l'ho lontano la macchina, è quello che mi rompe le balle. No, Natali, sto scherzando, non c'è bisogno, ho detto così, non ci mancherebbe, dai. Ok, dai, buon tutto Natali. Antonè, dai, ti saluto e siamo tutta la sera in radio, qua, non dico tutta la sera, quasi, là. E vediamo cosa c'è in TV dopo, dai. Ok, là, non c'è problema, io sono tornato invece la sera in giro, destra, sinistra, fare commissioni per Simona, poi giù, e sono, mangiami qualcosa di veloce, ma sai cosa veloce? Cosa vuol dire veloce? Veloce come i cavalli. Dopodiché adesso devo accompagnare a lei, stare attento, non sei cara, c'è il cane che è appresso, per carità, mi chiama lui il cane addirittura. Parte prima, viene da me, poi io torno indietro, io in pratica la salone, entro dentro, prendo la braccetta e accompagnarla. Bene, bene, bene. Poi se mi buio dalla TV provo a vedere chi c'è in radio più tardi. Comunque poco movimento oggi anche. C'era un po' di propagazione, poi è sparita. Anche repentinamente è calata la propagazione. E poi quella per l'Italia, dico. E già sentiremo, dai. Ok, buona serata, buon tutto. E saluta in casa, ok? Sì, altrettanto, non c'è problema. Sì, un cliente usa. Ma che poi vi sono portato adesso? Ma va a fare il culo. 8, 9 e 10. La papà è sopra. Ok. Quell'applicazione è un Mauma. Mi ha chiamato Gianni ieri notte, mi ha chiamato. Siccome l'hanno bandato, mi ha messo di vietro, capito? E ho detto, bisogna ci vediamo, ho detto così è meno. Evidentemente qualcuno ti ha messo nella blacklist. Ecco perché non trasmetti, ma dicevi. Ah, l'hanno bannato, ma Gianni chi doppio? No, luna e sole. Però perché ti bannano? Se ti bannano c'è un motivo. Forse qualche battuta colorista, qualche... Vabbè. Se intanto sarà quello, non lo so. C'è scritto Gianni, c'è il numero di sigla suo, e poi c'è questo divieto, capito? Il scritto rosso, eccetera, eccetera. Non c'è altro che sia. Infatti ho detto, guarda che tu hai detto, senz'altro hai avuto le palle a qualcuno, e quindi hai detto, lascia passare una settimana, ho detto, dopodiché ti ritornerò come prima.